fail. Tiro spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Tiro fail. Fail. Tiro spag. Spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.